Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe. Ça fait déjà un femme bail. Ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu. Ce curieux sourire qui m'avait tant plu. Sa voix si fatale. La folle idea che esporrò questa mattina prendendomene ogni responsabilità mi venne circa una settimana fa. Stavo a Cagliari, non c'entra nulla. Stavo andando, dovevo andare a fare una lezione in un'università, a parlare agli studenti. Ero andato a letto piuttosto tardi, alle 3 di mattina avevo sollevato notte donne fino a tardi, e quindi devo trovare un argomento. L'argomento me lo suggerì all'entrata della città, venivo da Oristano, quindi entravo nella città dalla parte nord, diciamo, della Sardegna. E vidi il cimitero di Cagliari, un cimitero uguale a quello di tante altre città, un grande condominio, un agglomerato di cemento armato. Oggi i cimiteri assomigliano moltissimo alle periferie più trascurate. L'urbanistica dello stipamento delle masse umane in grandi aree abitative, dei dormitori, è tracimata esattamente nell'ingegneria cimiteriale. I cimiteri sono dei grandi dormitori in attesa della vita eterna, in attesa dell'apocalisse, e non c'è più quella ricerca estetica, quello studio particolare per cui il cimitero fosse un grande giardino in cui le care salme riposassero in un luogo idilliaco che già era preludio per noi ancora in vita di ciò che sarebbero state le delizie dell'aldilà. E quindi cipressi, siepi di mortella, fiori ordinati, poi tombe, poi statue con tutta una simbologia, ogni statua a seconda di come accennava, a seconda dello sguardo, a seconda degli oggetti, delle panoplie che portava in mano, aveva un significato. Esiste una profonda, radicale e molto interessante, articolata simbologia cimiteriale, e questo veniva rispettato finché c'era spazio, finché c'era modo, finché poi soprattutto i cimiteri cosiddetti monumentali servivano come memoria, come ricordo di persone eccelse che erano passate nell'avventura terrena, perché le ricordassimo. Al cimitero Verano di Roma una bellissima passeggiata, si passa attraverso dai poeti romantici a, non so, Alberto Sordi, per dire, mi viene in mente, non so, quindi tutti coloro che hanno lasciato comunque una traccia nell'immaginario, siano poeti, siano letterati, siano grandi uomini di Stato e siano appunto attori, siano cantanti, siano soubrette. La morte che rende tutti uguali rende un po' meno uguali quelli che da vivi hanno significato qualcosa per i loro contemporanei. Questo era il senso del cimitero, un grande giardino. A un certo punto il problema del cimitero è diventato quello dello smaltimento dei cadaveri. Muore tanta gente, le città sono piene di gente, quindi il passaggio tra il loculo abitativo e il loculo dell'attesa per la vita eterna è meno drastico. Praticamente si passa da una soluzione abitativa all'altra con una grande continuità, diciamo, di location. I cimiteri sono sempre più brutti, i cimiteri sono sempre più periferici, i cimiteri assomigliano sempre più a dei grandi contenitori, assomigliano sempre più a dei luoghi in cui vengono ammassati i cadaveri. Anche la necessaria e importante, la sto facendo un po' lunga, però è importante perché quello che dico è abbastanza complicato. Anche il senso ultimo del cimitero è quello di un luogo di elaborazione del lutto, dove io vado sulla tomba di una persona che è scomparsa, alla quale mi sento molto legato, e trovo una sorta di ideale e sottile senso di continuità tra me e quella persona, vedendone la fotografia, pulendo la lastra tombale, mettendo dei fiori. Anche questo è molto difficile, la topografia di un cimitero è complicatissima, ogni giorno arrivano nuove tombe, ogni giorno gli scavatori scavano nuove trincee, costruiscono nuovi colossi in cemento armato, tutti uguali, tutti identici, occorrono delle piantine dettagliate, si perde la cognizione del luogo in cui è sepolta la propria cara salma. È sempre più raro andare a trovare un caro al cimitero. I cimiteri, come ho detto, essendo periferici, richiedono un lungo tragitto. Nei momenti dell'anno deputati per la visita dei morti è impossibile andarci. Sono delle file di Roma, da Roma centro a Prima Porta, che inestinguibili, invalicabili, quindi praticamente impossibile. E quindi si perde sempre più il senso del contatto di espressione della propria pietas verso il morto. Quindi il senso sarebbe: a che servono più cimiteri? Non servono più a nulla. Aboliamo i cimiteri, ridiamo spazio alle città, togliamo questa sorta di brutto obbrobrio di cemento. Anche Tristanzuolo, che senso sa avere questo grande ammasso di morti anonimi che nessuno va più a vedere, in un posto anche brutto, diventa una discarica, non è più il giardino eletto in cui le loro anime possono essere appagate dal fatto che esiste ancora una sorta di legame con le loro spoglie mortali. Sarebbe molto più semplice che ognuno avesse a casa propria i propri dei penati, cioè i propri antenati, e si ritenesse in un armadietto, belli lì, sintetizzati. Quindi un contatto con la fisicità del corpo dell'istinto ci sarebbe. E come sostituiremmo tutto il processo di elaborazione del dolore e il ricordo? Semplicemente facendo risorgere digitalmente i nostri morti. E questo bisognerebbe farlo già in vita. Ognuno di noi è una somma di parole, di pensieri, di immagini, di atti, di cose che ha scritto, di cose che ha detto, di cose che ha costruito, se era un artigiano, ha detto tutti sono pensatori. Tutto questo oggi è racchiudibile comunque in dei file facilmente trasportabili, facilmente riportabili in superficie attraverso dei processi di digitalizzazione. La vita di ognuno di noi può essere digitalizzata. Io tutto quello che ho detto alla radio, tutto quello che ho scritto, le mie fotografie, le mie scelleratezze su Facebook, il ricordo delle persone che ho conosciuto, i filmati dei miei momenti da ragazzo, da fanciullo, da bambino, da grande, da adulto, da vecchio, da morto, da cadavere, sono tutti racchiudibili in dei file. L'importante è trovare una chiave di fruizione di questo materiale razionale, uguale per tutti, facilmente, in cui sia facile immettere dati, e noi avremmo la possibilità di avere tutti i nostri morti ben presenti. Ogni volta vogliamo sentire la loro voce, vedere la loro immagine, capire cosa hanno fatto, seguire i segni sottili del loro passaggio, potremmo farlo. Questo è la digitalizzazione dei morti, ma digitalizzazione dei morti che inizia da quando siamo vivi. Dovremmo cominciare a digitalizzare noi stessi, non tanto perché oggi è un giorno importante, oggi è stato pubblicato un'intera pagina sul Corriere della Sera, una serie di persone, vedo c'è anche il mio nome in mezzo, quindi anch'io faccio parte di questo gruppo, chiedono a tutte le forze politiche d'Italia, nessuna esclusa, di dare all'Italia un'agenda digitale. Cioè, questo, il nostro paese non può ignorare il fatto che il digitale ormai è una realtà condivisa, usata, fruita da un'infinità di persone. Anche in Italia ormai internet è una realtà non più aliena, usata da tutti, sia per gioco, sia per mestiere, sia per passione, sia per dovere, e quindi è importante che si cominci a definire cosa bisogna fare per il progresso del nostro paese nella direzione del digitale. Il mio piccolo contributo questa mattina è proprio questo: aboliamo i cimiteri e, in attesa della vita eterna, diamo a tutti la possibilità dell'eternità digitale. Le prime operazioni che un tanato esteta compie: gonfia le gote col cotone e lava il corpo del defunto. Vengono così lavate via le fatiche, i dolori e le passioni di questo mondo. Come un neonato, dopo il suo primo bagno, il defunto è pronto per iniziare la vita nel nuovo mondo. In passato il lavaggio di purificazione veniva fatto con l'acqua calda di una dinozza. Oggi, per motivi igienici, intingiamo questo panno di cotone in un liquido disinfettante. E questo panno lo passiamo su tutto il corpo. La vestizione deve essere fatta procedendo con molta attenzione. Ecco, questo è quello che noi non abbiamo più, non esiste più alle nostre latitudini. È un culto, una ritualità, un cerimoniale di devozione nei confronti della salma della persona scomparsa, perché si prolunghi il più possibile l'effetto, l'impatto emotivo tra chi è scomparso e tra chi rimane. Il film è Departures, è un film giapponese infinitamente bello, che parla, è la storia di un violoncellista che a un certo punto la sua orchestra viene sciolta, rimane in miseria e non trova altro da da fare come lavoro, col lavoro di cui si vergogna, non può dirlo a sua mente a nessuno, è il tanato estetista. Va da un maestro di tanato estetica, che in Giappone è una pratica normalmente usata, quando muore una persona viene chiamato il tanato estetista, che lo prepara il morto, mette dei fiori, lo veste in una maniera molto particolare, lo lava, lo profuma, lo rimette, lo ricompone come se fosse vivo, perché l'ultimo addio, l'ultimo colpo d'occhio sia quello della miglior forma possibile. Lui si produce per un lungo periodo in questa sua pratica, si scopre bravissimo, è meraviglioso, il miglior tanato esteta. La moglie lo sa, si vergogna di lui, c'è una crisi in famiglia, e poi si ricongiungerà con la memoria di un padre che non vedeva da tantissimi anni, proprio dovendo applicare questa pietà estrema nei confronti della salma di suo padre. Quindi attraverso una forma di uso tramandato di culto si dà giustificazione appunto a quella che è tutto il cerimoniale funebre. Questo accade in Giappone, ma accade qualcosa di simile alle nostre attitudini? No, non esiste assolutamente. Quindi io preferirei gran lunga piuttosto avere un tanato esteta che mi faccia carino e bellino, perché possono vedermi come mai mi hanno visto in vita, e che molto facilmente prendessero di me quello che io voglio lasciare. Mi piacerebbe lasciare in una chiavetta USB tutta la mia vita, per i miei figli, per chi rimarrà dopo di me, in cui racconto, serpeggio nei miei ricordi, classifico i miei ricordi. Questo mi rendo conto che non è facilissimo. Occorrebbe pensare, qualcuno dovrebbe immaginare, questo potrebbe far parte dell'agenda digitale del nostro paese, una sorta di tool di immissione, un database, perché i ricordi hanno un senso se sono indicizzati, se sono taggati, sono facilmente ricostruibili. Se il database è uguale per tutti, se noi immettiamo la chiavetta con il ricordo del marito scomparso, della moglie defunta, del nonno, del fratello, del figlio, del nipote, via dicendo, immediatamente sappiamo dove andare a cercare. Veramente ritroviamo le cose che lui ha voluto lasciarci come evidenza, e quelle che noi in realtà di lui vorremmo sapere. Se no, altrimenti diventa una semplice farsa, un semplice ripetere un rituale che non ha più senso, non è più sentito. Ti ricorderò sempre, Formichella, quando accompagnandoti con la chitarra cantavi: io sogno sempre i baci tuoi, i baci mendaci tuoi, i baci mordaci tuoi, mortaci tuoi. E ti ricorderò anche nello sketch della telefonata d'amore, quando il telefono ti dicevo: pronto? Pronto, chi parla? Pronto? Chi è? E tu rispondevi: sto cazzo! Già cominciano ad arrivarmi su Facebook i primi messaggi. Mi scrive Dario: cremazione, dispersione del luogo significativo per il caro estinto, che diverrà luogo della memoria per noi e per i nostri pellegrinaggi. Aboliamo i cimiteri, le lapidi lungo le strade, i feticci. È vero, questa è una parte, la parte più concreta, di dire: togliamo quello che già c'è perché non ha più senso, sostituiamolo. Fa parte di una filosofia, di una visione della vita, anche di un'ideologia. Non è semplicemente questo. È la seconda parte della mia ipotesi, quella che giudico più importante. Ciò non è che avverrà drasticamente, improvvisamente si radano al suolo tutti i cimiteri, facendo cadere nello sconforto chi lì ha persone, ha ricordo di persone care. No, ma cominciamo a pensare già da vivi, e qui è il punto dell'agenda digitale che io vorrei suggerire, che ogni essere umano, sin dalla nascita, in realtà ha pieno diritto alla classificazione, all'ordinamento della propria ombra digitale. Cos'è l'ombra digitale? L'ombra digitale è quella che noi passivamente, attivamente creiamo semplicemente nascendo. Quando nasciamo, alcuni dei nostri dati vengono digitalizzati, sono le informazioni all'anagrafe. Altri dati vengono trasmessi digitalmente tra i nostri parenti, sono le email che si mandano con le foto del bambino. Queste foto via via vanno accumulandosi non più in degli scatoloni, ma in delle memorie flash, in dei CD-ROM che si tengono in casa, negli hard disk dei computer. Andando avanti è una massa enorme di dati. Un paio di anni fa Focus fece un'inchiesta e si rese conto che i dati digitali che vengono prodotti ora nel mondo, quindi tutte le foto che vengono fatte, tutte le transazioni, tutte le email che vengono mandate, guardate che una semplice email già occupa tantissimo spazio. Ogni volta che mandate un'email c'è una copia nel vostro server, una copia nel server del provider che vi fa fare l'email, una copia, altrettante copie nei server delle persone a cui mandate per conoscenza questa email. Beh, tutto questo, dicevo, Focus nella sua indagine capire se noi dovessimo rappresentare fisicamente i dati digitali prodotti in questo momento nel mondo, si immagina che riempirebbero 12 pile di libri alte quanto la distanza tra la Terra e il Sole. Quindi tutti questi dati digitali che sono confusamente messi avranno modo di partorire un piccolo momento di risurrezione digitale individuale per ognuno di noi? 800 24 00 24. Pippo, buongiorno. Allora, lei ha già risolto il problema, mi era venuto in mente questi giorni, a me ci stavo riflettendo, ma lei mi pare che l'abbia già risolto. Beh, in un certo senso sì. Allora, in modo disorganizzato mia madre ha lasciato circa 10 gigabyte di dati. Che siano disorganizzati non è importante, perché se volessi potrei farli scannerizzare da, per esempio, Google Desktop e riuscirei a recuperare in un attimo tutto, su qualsiasi argomento. Sua madre cosa faceva? Ma guardi, preferirei non entrare... No, ma in generale, diciamo, aveva comunque... Diciamo che è stata disabile per una ventina d'anni, per cui questi ricordi non sono neanche talmente dei bei ricordi. Più che altro ci sono le sue ossessioni, le sue aspirazioni, le sue tristezze. Non è necessariamente una cosa positiva avere tutti questi ricordi. Comunque, quello che mi interessava sapere, sua madre ha avuto modo di mettere comunque in un sistema digitalmente alcune informazioni, certo, su se stesse, perché ha avuto tempo di farlo. Beh, perché essendo disabile interagivo moltissimo per email, nonostante fosse abbastanza in tarda età, e raccoglieva soprattutto foto di oggetti artistici che le interessavano, per cui di materiale ce n'è tantissimo. Diciamo che ce l'avrei sempre a disposizione, ma non vado certo a guardarlo. Invece mi rendo conto che io sto già facendo qualche cosa di molto meglio organizzato che potrebbe servire nel futuro. Hai detto che il volume è enorme. Io in realtà metto via soltanto in versione puramente testuale i messaggi che secondo me dovrebbero rimanere nel record permanente. Per cui ho, credo, qualcosa tra i 6 e gli 8.000 messaggi miei e di miei amici che rappresentano tutti i punti più interessanti della mia vita. Però ti rendi conto, Pippo, che la cosa importante è l'indicizzazione di questi dati. È assolutamente automatico, ormai non è più neanche necessario mettersi a fare ordine, perché l'ordine lo fa direttamente il software che scanna. Sì, ma l'ordine sei tu che devi darlo, tu devi dare le priorità. Allora, se io voglio ricordarmi... No, per niente, perché viene indicizzato esattamente come Google indicizza il resto Sì, ho mondo. Capito, Pippo, scusami. Metti per assurdo fossimo amici, io cosa voglio ricordare dell'amico Pippo? Quello che lui vuole farmi capire della sua vita. Quindi dovresti avere un campo che si chiama amori, un campo che si chiama amicizie. È molto più semplice, tu cerchi amori, oppure cerchi fidanzata, oppure qualsiasi altra cosa che ha a che fare con qualsiasi altro tema della nostra vita. Ma poi, tra l'altro, questo è esattamente quello che fanno i sistemi di spionaggio che ci leggono la posta per cavarne notizie sul terrorismo e via dicendo. Non è necessario digitizzare. Ci sono questi mostriciattoli nascosti nella rete da qualche parte nel mondo, non sappiamo neanche dove sono, che riescono a capire anche le cose più sottili su di noi. Ok, abbiamo capito, Pippo, fermiamoci qua. Tu sei stato il primo esempio e mi ha fatto capire che quello che diciamo non può essere solo follia. Per avere una giusta contrapposizione, che faremo naturalmente andando avanti a questo momento in poi in questa trasmissione, tra passato e fra futuro stiamo ipotizzando, abbiamo un ospite che finora abbiamo volutamente tenuto in ascolto, volevamo far capire esattamente qual è il nostro punto di vista. Giuseppe Mercenaro, buongiorno. Buongiorno. Mercenaro, scusami che ti ho tenuto finora in ascolto, ma volevo che tu capissi, era un po' difficile da spiegare il senso. Mercenaro è un giornalista, un saggista, autore di Cimiteri, storie di rimpianti di follie, edizioni Bruno Mondadori. Un paio d'anni fa Giuseppe Mercenaro è andato in giro per vari cimiteri in cui rimanevano illustri vestigia e ha tracciato un filo importante di questa necessità, volontà che appartiene al mondo analogico di lasciare una traccia. Cosa ne dici innanzitutto della nostra ipotesi? Poi entriamo nello specifico di quello che è stato. Una grande follia. Benissimo. Completamente, perché quando si parla di morti e di cimiteri si perde la testa. Mentre invece è la cosa più normale di questa terra morire. E il cimitero, che è l'invenzione più assurda del mondo, perché interessa i vivi e non i morti, mi pare che sia veramente da affrontarsi nella maniera più virile, serena e distaccata che ci possa essere. Ora, inventare anche un cimitero cibernetico mi pare una cosa. Infatti il libro, il mio libro, non è una guida sui cimiteri, non sono andato a cercare il rimpianto di ciò che fummo, semplicemente è un libro sulla follia dell'uomo, perché nel momento in cui si dà l'ultimo vale e si dice riposa in pace, lì comincia il disastro, perché i vivi si balloccano coi morti e l'unica maniera che hanno per esorcizzare la morte è continuare a trasferire i morti da una parte e dall'altra, e adesso apprendo anche a renderli dei prodotti elettronici. Complimenti, mi pare che come processo di rapporto con il proprio al di là oppure il non al di là l'abbiamo fatto. Allora, Giuseppe Marcenaro, ci sentiamo tra un istante dopo l'informazione della borsa, così ci spiegherai il tuo punto di vista, soprattutto quali sono le follie che tu hai individuato in questa frenesia di conservazione, di trasferimento veloce o di tumulazione frenetica dei vivi, di ciò che rimane dei loro cari morti. A tra un istante. Connu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me lo segni, bro. C'è una cosa. Non mi preoccupare. .800 24 0024, questa mattina stiamo parlando, dando un nostro contributo all'agenda digitale che molti invocano questa mattina, 100 giorni a tutti i politici italiani per dare un'agenda, una strategia digitale al nostro paese. Io sto pensando questa mattina, se ogni essere umano avesse la consapevolezza al momento della nascita di poter essere inserito nei momenti salienti, importanti, significativi ma anche futili della propria vita in un database individuale, non avremmo più il problema dell'urbanistica sconcia dei cimiteri. Questo è soltanto un'ipotesi, una maniera per ragionare su quello che è il passaggio tra mondo organico e mondo digitale. Molte le reazioni su Facebook, naturalmente le persone che da vive pongono le loro emozioni, la loro capacità relazionale in un social network, sono le prime che riescono a riflettere su questo, su questa ipotesi. Maria Lucia mi scrive: in effetti la rimembranza dei nostri avi può avvenire anche senza la presenza materiale delle spoglie mortali, come ad esempio davanti a un cenotafio. Ormai in un cimitero moderno come quello di San Michele a Cagliari, a cui ho fatto cenno, non c'è più nulla del luogo di raccoglimento pietoso, ma solo la triste e alla fine solitaria messa in scena di una società che non riesce a prendere decisioni sui propri morti. Luigi: perché dovrei obbligare chi mi sopravvive a fare ogni tanto un pellegrinaggio davanti a un pezzo di marmo dietro cui sta una cassa di legno oltraggiosamente cara con i miei resti in putrefazione? Stefano: i miei cari riposano in una specie di condominio, nella cantina di un condominio, per questo non riesco ad andarli a trovare. Adoro i cimiteri monumentali, luoghi di storia, malinconia, ma soprattutto di ricordo. Digitalizzare le nostre vite cancellerebbe il ricordo che gli altri hanno di noi, e spesso il ricordo di qualcuno non c'è più, è molto benevolo rispetto a com'era davvero. Rivederlo vivo e umano potrebbe non essere una buona idea. Ecco, molti mi scrivono questo, che in realtà la memoria digitale, la traccia digitale sarebbe una traccia realistica, si perderebbe il ricordo idealizzato. Abbiamo come ospite questa mattina Giuseppe Marcenaro, che è un giornalista, saggista, autore di Cimiteri, storie di rimpianti e di follie, edizioni Bruno Mondadori 2008. Giuseppe Marcenaro, allora, alla luce anche di queste ultime riflessioni, continuo a essere convinto che l'uomo è matto di fronte alla morte, perché non sa affrontare il problema in maniera virile, cioè il fastidio di non esserci. E allora le inventa tutte. Beh, muoiono anche donne, le donne non è che lo devono affrontare proprio in senso virile. Vabbè, insomma, diciamo chiunque. Sì. O usare l'uomo in senso lato. Sì, però insomma, ci capiamo. Mi dà atto che i cimiteri oggi, come sono intesi, come agglomerati suburbani, non hanno più questo senso di luogo di elaborazione del lutto. Ma certo che no, però la cosa divertente è che anche il cibercimitero finirà con l'essere un altro luogo di infinita spazzatura, dove tutti andranno o non andranno. Cioè, il vero problema non è il mezzo, e cioè l'imbalsamazione, il cimitero, il cenotafio, il monumento, la tomba, eccetera, eccetera, o la chiavetta. È il nostro rapporto col non esserci, semplicemente questo. E facciamo tutte queste cose, anche questa mattina che ho ascoltato con molta attenzione questo discorso molto affascinante, divertente che hai fatto fino a questo punto. Che cosa è? È soltanto la paura della morte, è quello di non esserci. Allora ci inventiamo tutte queste palle incredibili. La più grande palla di tutte è il cimitero, perché non è un luogo da, non è un luogo da morti, ma è un luogo da vivi. E così come ancora queste chiavette e tutte queste memorie elettroniche, che cosa servono? Serviranno ai morti? No, serviranno a quegli altri vivi che erano dopo di noi, con l'illusione di non essere morti. Sì, ma noi saremo da un'altra parte, forse non ci saremo più, questa è un'ipotesi mai verificabile. Fortunatamente saremo da un'altra parte, mai verificabile finché si è vivi. Cioè, quello che a me sorprende è che sia pur con un linguaggio avveniristico e con le tecniche connesse all'elettronica, siamo ancora gli imbalsamatori dell'epoca degli egiziani, perché il rapporto con la morte non è cambiato. E questo mi conforta sul fatto che ancora siamo umani. Perché in realtà io, mentre sentivo parlare di chiavette con la memoria dei nonni, degli zii, eccetera eccetera, mi venivano in mente le tavolette del libro dei morti. È la stessa cosa. Sì, ma soltanto che è innegabile. Le tecnologie sono cambiate. L'ipotesi nasceva dal fatto di non occupare più spazio fisico, paesaggio, spazio ai vivi, mettendoci questa discarica di morti. Tanto vale. Ma è perché lo spazio elettronico non è uno spazio? Beh, è uno spazio che occupa meno concretezza. Certamente io non sono un cultore dei monumenti cimiteriali, del culto delle salme. Qual è l'aspetto più folle però che hai visto nella tua indagine? Ma nella mia indagine la follia non è altro che l'aspetto più folle. L'aspetto più folle è che l'uomo si occupi dei morti, i vivi si occupino continuamente di morti e non li vivano come un fatto di assoluta proiezione di sé nel futuro. Sono semplicemente lì a trafficare, come stiamo facendo in questo momento anche noi. Noi facciamo questo discorso perché abbiamo paura di morire. Ecco la vera, il grande equivoco che ci trasciniamo dietro. Sì, oddio, non abbiamo la vocazione del kamikaze, fa parte della nostra cultura avere un pochino di dispiacere di andarsene, però quello che volevo... più che dispiacere è il fastidio di non esserci. Lo so, caro mio, non sembra facile. Ma anche se io finisco in una chiavetta, poi che senso ha? Però guarda, il senso dei cimiteri era anche di lasciare tracce delle persone, lasciare momenti importanti di riflessione, testimonianze certo, del passato. Certo. Piuttosto che avere delle casse che ogni 20 anni bisogna rivuotare, rimettere nelle cassette, poi incenerire. Ma dove esiste la cremazione, no? Sì, potrebbe essere... Sublime sistema per incenerire la gente, sì, o incenerirci, e poi le ceneri vengono lasciate libere, tornino al mondo. D'altra parte, pensa la cosa drammatica e curiosa al tempo stesso, che la Terra medesima, in quanto pianeta, è il più grande cimitero che si conosca, perché da quando l'uomo è apparso sulla faccia della Terra, è stato sepolto sul pianeta Terra, e da qui non se n'è andato mai nessuno. E il vero grande cimitero, vivo o morti, è la Terra. Non sono i recinti che abbiamo ambientato fuori dei guardi pietosi, eccetera, eccetera, o sor chi lascia eredità d'affetti, gloria dell'urna. Sì, sì, ancora anche la nostra fonte energia primaria. Ciò che abbiamo sottoterra tiriamo fuori e facciamo andare. Sentiamo un attimo qualche ascoltatore. Gian Lorenzo, buongiorno. Buongiorno. Io ormai ho perso tutto il filo, ascoltavo, sono pienamente d'accordo con quello che ha detto il... Nella sua famiglia state digitalizzando la vostra vita? Ma io, per quello che mi riguarda, nel nostro piccolo penso che ognuno un po' digitalizzazione alla faccia, perché qualche ricordo, qualche foto, qualcosa rimane sempre, secondo me. Allora sentiamo Adriana. Adriana, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. 82 anni. Sì. Sì, sentire, io ho tante cose da dire, ma l'ultima che mi è venuta in mente è quella della cremazione. Allora, qualche anno fa una mia amica molto religiosa, perché una volta sa che non permettevano di cremare perché la religione cattolica... Ma parliamo del ricordo. Sì. Allora, sì, ecco, allora lei ha voluto a 90 anni essere cremata e le sue ceneri sparse sulla terra del cimitero, perché ha detto, quando volete venire a trovare me, sapete che io sono là. Ecco, mi capisce, è questo il discorso. Allora, io sono 18 anni che sono vedova e un nostro amico ha detto, ma Tony, sei ancora là? E ho detto che sia, è certo che è ancora là sottoterra, perché una volta levavano nelle tombe dopo 10 anni, ma siccome che adesso vengono cremati, il territorio non serve più per recuperare la tomba, sicché mio marito, sono 18 anni che è là e non lo levano perché non hanno bisogno del territorio. Sì, ma suo marito, per lei è quelle ossette che stanno dentro la bara, è quello suo marito? Come? Suo marito, sono le ossa dentro la bara? È tutto, sì, ancora dal 1993 è là. Io spererei che qualcuno non mi identificasse dopo morto con un mucchio d'ossa dentro una cassa, vorrei che rimanesse qualcos'altro. Questo era il senso del discorso questa mattina. 800 24 00 24, a tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ottone, la vita è come una cambiale. Hai detto bene, la cambiale. E io devo pagare, capisci? Devo pagare. Beh, Ottone, in quanto a pagare c'è sempre tempo. Però mica tanto, mica tanto. Che bella idea che mi è venuta, ma che magnifica. A me se vengono così idee, mannaggia come vengono idee a me. Si potrebbe fare una bella tomba, ma grande, ma molto grande. Un tombone per tutta la famiglia. Ci andiamo tutto quanto dentro. Tu puoi inaugurarlo quando vuoi, io ho la precedenza. Grazie. Tu sei fratello, ho la precedenza. Io ti ringrazio. Ma tu non devi interessare a me, penso tutto io. Io parlo con gli ingegneri, con l'architetto, con i muratori. Vuoi vedere il progetto? No, io vedo il progetto. No, faccio il progetto. Ti faccio vedere il progetto. Ma che progetto? È un progetto unico, guarda qua. Questo è Totò in Signore si nasce, che chiede a Peppino, che vuole finanziare una grande tomba per la sua amata, ma in realtà vuol far costruire una villa, era talmente grande questa tomba che in realtà era una casa. Fuori di facezia, questa mattina vedo che ho suscitato sia risentimenti sia curiosità da parte degli ascoltatori, semplicemente proposto un'abolizione dei cimiteri, ormai sono un orpello di un passato non più necessario all'elaborazione di un lutto. Un nostro ospite in studio dice che servono per significare la nostra paura della morte, che non ci siamo mai tolti di dosso, ma oggi non servono più nemmeno a quello, servono semplicemente come un luogo in cui si svolgono delle operazioni di quotidiana artigianato industriale, anzi industria cinemateriale, spostano, rimettono, cambiano, levano, puliscono, riscavano, ricostruiscono. È una grande macchina che si autoalimenta, che mantiene se stessa perché deve esistere. Se non esistessero più non ne sentirebbe più nessuno la mancanza, perché i cimiteri hanno perso il senso per cui erano stati costruiti, dei giardini della rimembranza, del ricordo. Mi stanno scrivendo sempre su Facebook, gli ascoltatori cominciano a porsi il problema che anche il social network, che è molto fresco, quando comincerà a avere una diecina di anni, una quindicina di anni, una ventina di anni, i suoi frequentatori cominceranno a dipartire. Cosa accadrà? La cosa che mi inquieta è il fatto, dice Paolo, che il mio profilo Facebook mi sopravviverà. Io ho molti, qualche amico morto, vedo ancora il suo profilo Facebook. E chi lo cancellerà mai? E quindi state sempre attenti alle foto che state caricando, potrebbe essere quella estrema. Emanuela, ma come digitalizzare? Sarebbe la versione hard di tutte quelle belle lapidi romane, ingrigite e screpolate, che devi andare sottoterra per vederle e ci passi la mano sopra i caratteri, in cui si legge, ovvio, quelli che lo sanno fare, mica cani e porci. Qualcuno ha fatto il fornaio, ha 7 figli, la moglie fedele, lo ha riposto e lo ricorda con amore insieme a tutti gli amici. Quelle di oggi, prevalentemente nei cimiteri cristiani, solo con nome e cognome, nascita e morte, e dentro nulla E queste li fanno orrore, vero? Una volta nella lapide c'era una microstoria fantastica, iperbolica, simbolica del morto. Oggi soltanto delle date, oggi è semplicemente un contenitore di cadaveri. Piero, buongiorno. Buongiorno a lei, dottore. Io di recente ho perso la mamma e quindi mi trovo a vivere in diretta, se vogliamo, questo accavallarsi di sensazioni, quella di andare al cimitero per la prima volta a trovare le ceneri, le spoglie, quella di entrare in camera di mia madre e quella di rivedere un video sul telefonino girato così casualmente qualche tempo fa. Ammetto, dica. Sì, sto ascoltandola con attenzione. Ammetto che l'andare al cimitero a visitare la lapide è la cosa che sicuramente mi fa sentire meno vicino a mia madre. Mi trovo più spesso a guardare il video dove sento la sua voce, vedo il suo sorriso, e ancora più entra ancora più dentro di me il suo odore, quindi entrare in camera sua. Quindi collegandomi al discorso che faceva lei sul futuro, eccetera, eccetera, certamente la camera non potrà rimanere più quella di una volta e quindi andrà smantellata e quindi l'odore via via si perderà. La lapide di per sé, al di là di quei caratteri e di una frase, di un epitafio, nulla lascia a un figlio. L'immagine video, l'immagine, la foto, l'oggetto, sicuramente sono quelli che, almeno al momento, è passato pochissimo per me, sicuramente sono quelli che me la fanno sentire più vicina. Piero, questa è una riflessione che qualcuno deve fare prima o poi, so che è abbastanza spiacevole. Sono anni che anche a questo microfono noi ragioniamo su quanto le protesi che abbiamo accanto, il telefonino, la macchina digitale, il televisore, siano diventati ricettacolo delle nostre emozioni. La gente si ama, la gente si tradisce, la gente si innamora, si odia attraverso il rapporto indiretto. Ma anche la conservazione della memoria di una persona scomparsa oggi ci emoziona molto di più attraverso l'indiretta visione di un video, di un file audio, piuttosto che andare materialmente, seguendo un percorso spiacevole, non più andare al cimitero, che è il bel giardinetto che ci pressi alla periferia del paesello, andando in questi luoghi orrendi, sempre in delle periferie terribili, con delle lunghe file, con dei parcheggi oltraggiosi, a trovare qualcosa che non ci dice più nulla. Grazie della telefonata. Diego c'è ancora? No, è caduto. Alessandro. Sì, buongiorno. Ho sentito gli interventi. Guardi, io personalmente sono d'accordissimo nel trovare soluzioni alternative ai cimiteri. Sono però molto contrario a inventarci delle cose virtuali per immaginare ancora una volta sempre di più, o per proiettarsi su degli affetti, su delle persone che non ci sono più. Ma non essendoci più qualunque cosa è virtuale, ciò che compete, appunto, a questa persona. Visto che qualsiasi cosa è virtuale, quando una persona se ne va, resta il ricordo nei suoi cari, resta la sua simpatia, la sua antipatia, ma immaginate come potrebbe essere squallido fra 20 anni vedere su Facebook, su un filmino, su qualcosa, una persona che non c'è più, cioè che emozione può dare? Ma guardi, non bisogna spaventarsi però nella variazione. Sa, se entra nella casa di una nostra zia o nonna, erano delle case che erano dei cimiteri, cioè il salotto di mia nonna era tutta un'immagine di morti, c'erano più morti che vivi in quelle case. Sì, adesso... ma era un'altra società, era un altro mondo. Noi siamo un altro mondo, allora erano foto stampate su cartone, ritoccate col pennellino a china, certo, oggi a colori, sono dei filmati. A colori anche. Si ricorda, però... le foto dei morti erano terribili, molte volte gliele facevano da morto e lo facevano sempre a vivo. C'erano delle persone che non avevano mai foto la loro vita, fotografavano il cadavere, gli ridavano un'imbellettata e c'erano queste foto irrigidite, totalmente reali, ritoccate tutto. Più o meno... Sì, prego. No, io credo che sarebbe molto più reale, molto più dignitoso per tutti, quando uno se ne va effettivamente senza ricorrere ai cimiteri, ma come ha detto chi mi ha preceduto, con la cremazione, sì. Puoi farlo ritornare alla terra. Sì, questo però è un altro tipo di problema. È lo smaltimento della scoria organica. Questo guardi, è un altro problema. Le faccio un esempio che mi auguro venga interpretato nel giusto modo. Io sono separato da circa 30 anni, non rivedo più la mia moglie, la mia ex moglie, la mia prima moglie da altrettanti anni. L'ho rivista per caso su Facebook, è un'altra persona. Beh, dopo 30 anni chiunque. Ecco, esatto, esatto. Ma se io... Anche mia moglie che ce l'ho accanto, è un'altra persona rispetto a 30 anni. Io il ricordo che ho di lei, ce l'ho limitatamente al periodo in cui abbiamo vissuto insieme, alle emozioni. Sì, ma non è morta, la vita per sua moglie è continuata, anche se non è più sotto certo di lei. Ma certo che continua, ma è la stessa cosa, cioè se io mi dovessi rivedere un'immagine, un film, dovessi risentire una chiamata alla segreteria telefonica di un mio parente morto anni fa, molto probabilmente... No, non proverei nessuna. Vabbè, voi fate un po' di confusione, pensate semplicemente avere un ricordo digitale, una sorta di operazione medianica, non si rievoca e si resuma a niente, cambia il supporto. Io ringrazio tantissimo Giuseppe Marcenaro, che ha scritto un libro su cimiteri, storie di rimpianti di follie. Ringrazio Valerio Rocchetti, Fabrizio Intonti, a domani. Alors tous deux on est parti dans tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.